24 mattino estate con Irene Zerbini. Ben ritrovati, oggi partiamo in ritardo, complice la festività, e dunque alle 8:15 il nostro appuntamento con i corrispondenti stranieri, quelli che ci raccontano, quelli che ci vedono, a volte anche meglio di quanto riusciamo a fare noi. Abbiamo toccato diversi paesi, continueremo questo viaggio allo specchio durante questo agosto, e oggi andiamo in Argentina perché a portarci è Elisabetta Piquet. Hola, buenos días Elisabetta. Hola, buen día. Buen día, ecco qua, subito si scivola sulla pronuncia. Senti Elisabetta, tu sei la corrispondente della Nación. Innanzitutto devo chiederti di che si parla in Argentina in questi giorni. Qual è l'attualità argentina, prima di parlare degli articoli che tu mandi dall'Italia? Sì, a parte il freddo polare che sta facendo in questi giorni a Buenos Aires, vi ricordo l'inverno. Se tu vedessi come siamo vestiti noi a Milano. Come? Se tu vedessi come siamo vestiti noi a Milano in questi giorni. Immagino. e si parla già del 2011, cioè di cosa succederà nelle presidenziali dell'anno prossimo, e quindi non si fa altro che parlare di polemica politica, di vedere quale sarà il candidato dell'opposizione, l'opposizione che discute tra di loro per vedere chi sarà il candidato, e anche la grande domanda è se i Kirchner, cioè Cristina Kirchner, la presidenta, si ripresenta, se si ripresenta il marito. Diciamo che questa è la polemica politica, che non solo di oggi ma dei prossimi mesi, immagino. Noi abbiamo letto e dato poi anche resoconti l'ultima volta dall'Argentina per quel che riguarda l'approvazione della legge sui matrimoni gay, ma non solo matrimoni ma anche adozioni di persone dello stesso sesso, questo meno di un mese fa. C'è stata una grande spaccatura nell'opinione pubblica argentina, o è passato tutto liscio e tranquillo in nome dei diritti umani? No, non è passato assolutamente tutto liscio e tranquillo, e devo anche fare una correzione: l'adozione ancora non è stata approvata, ma solo per adesso il matrimonio omosessuale, che ovviamente ha spaccato moltissimo la società. La Chiesa è sempre molto forte, la Chiesa cattolica in Argentina, paese fortemente cattolico, e ci sono state moltissime discussioni, ci sono state marce, una marcia moltitudinaria davanti al congresso, organizzata appunto da gruppi cattolici, e nel Parlamento è passata questa legge con una differenza veramente minima, scarsissima. Comunque già ci sono stati vari matrimoni, non solo a Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, dappertutto nel paese. Quindi non solo nella capitale. Non solo nella capitale. Senti Elisabetta, tu da quanti anni stai in Argentina? In Italia, scusami. Da quanti anni vivi in Italia, per raccontare all'Argentina? Da 10 anni. 10 anni, un italiano impeccabile, c'è da dire. E quali sono le tematiche di cui ti sei occupata nel corso della tua attività di corrispondente, soprattutto gli ultimi articoli che hai mandato dall'Italia? L'ultimo è stata questa polemica che c'è adesso a Firenze, tra il comune di Firenze e lo Stato di cui è la proprietà del Davide di Michelangelo. Sempre molto interessante tutte le cose anche di cultura che ci sono dall'Italia. Il Davide di Michelangelo è la statua più famosa del mondo, sempre ci sono cose sempre da raccontare anche in questo senso in Italia. Quest'anno tutta la Caravaggio mania che c'è stata per l'anniversario dei 400 anni della morte di questo pittore. Comunque molto anche ovviamente di politica, come ti diranno molti altri corrispondenti. Molto anche su tutto quello che mafia, 'ndrangheta, camorra, anche questo è molto interessa. Ovviamente anche il Papa, come dicevo prima, l'Argentina è un paese molto cattolico, quindi si seguono anche tutte le vicende del Papa, e quest'anno anche, come sai, tutti gli scandali, pedofilia, tutto questo, e poi anche fatti e notizie di tendenze e costumi della società, come per esempio un argomento è il fatto dei bamboccioni in Italia. Bamboccioni. Come si dice in spagnolo? Come lo scrivi tu? Difatti questa è stata una grande, cioè non sapevo bene come tradurre, quindi lo lascio mammoni o bamboccioni, spiegando un po' bambocciones, ma non c'è traduzione, perché in realtà non esistono in Argentina. Va detto però che non è un fenomeno solo italiano, in quanto abbiamo verificato delle statistiche che poi vi proporremo. È un fenomeno in crescita, anche se non raggiunge le percentuali così tragiche dell'Italia, un po' dappertutto. Un segno che ormai il lavoro dei giovani non è una fuga dalla povertà e soprattutto non è una fuga verso l'indipendenza. C'è questo problema dei bamboccioni che i corrispondenti stranieri non riescono nemmeno a tradurre. Eppure l'Italia e l'Argentina hanno diversi punti di contatto. Quanti sono gli italiani a Buenos Aires? Beh, teoricamente, cioè la metà degli argentini ha origine italiana. E quindi se si contano la quantità di passaporti italiani, che poi per il fatto degli ius solis, ius sanguinis, uno può avere il passaporto italiano già avendo un nonno italiano. E quindi a Buenos Aires, se non sbaglio, si contano 6 milioni di passaporti italiani, il che non significa che magari quello che ha questo passaporto italiano parli l'italiano, capisca l'italiano. Chiaro, chiaro. Semplicemente attesta una discendenza. Come in molti casi, in tutte le comunità degli italiani all'estero, il cognome o la possibilità di accedere a passaporto cittadinanza non sempre attesta una così, conoscenza anche della lingua, e viceversa moltissimi che invece conoscono la lingua o secondo alcuni sistemi giuridici potrebbero avere diritto alla cittadinanza, in quello stato non possono chiedere la cittadinanza italiana perché perderebbero la propria. Ci sono situazioni miste un po' in giro per il mondo, abbiamo verificato. Ma questi italiani d'Argentina parlano anche una lingua, un castigliano che risente delle influenze italiane? Oh no. Sente dell'influenza italiana il famoso lunfardo, che sarebbe l'argot portegno di Buenos Aires, che ha molte parole simili. Facci qualche esempio. Il lavoro invece di lavoro, per esempio. Invece che voy a laburar, me voy a lavorar. Il lavoro viene evidentemente dal lavoro, per esempio. La milanesa, la forchetta, no, come dite a Buenos Aires forchetta? Tenedor. Pensavo ci fosse anche una versione lunfardo. Versione lunfardo di forchetta, poi alcune parolacce ovviamente. Sì, sì, ci siamo certi che la fantasia italica si è spesa lì. Ma questi italiani d'Argentina, dicevamo, hanno secondo te una mentalità diversa dagli italiani che hai conosciuto qui? Roma e dintorni, cioè questa questione dei bamboccioni è esemplificativa di questi, ha incuriosito? No, sicuramente sicuramente in Argentina ci sono molte tradizioni italiane, di gente che la domenica quindi si riunisce e fa la pasta in casa e c'è la riunione familiare. Per il fatto del bamboccione direi che è proprio là non esiste il college come negli Stati Uniti, ma diciamo che l'usanza è quando uno finisce la scuola, se comincia l'università o no, ma comunque comincia a lavorare, dopo c'è sempre questa idea di indipendizzarsi, quindi anche se non ce la fa uno va con un amico, affitta un appartamentino. È molto anche comune che uno vada all'università, ma allo stesso tempo anche lavori per permetterselo, per sostenersi. E poi anche un'altra cosa che io noto è che là molti adesso si sposano, non è più di moda sposarsi, ma comunque convivono. Coppie molto giovani cominciano a fare figli subito, 24 anni, te vedi genitori di 24 anni, 22 anni a Buenos Aires, cioè genitori giovanissimi. Più giovani di quelli che tu incontri con il passeggino per le strade di Roma. Esatto, e poi a parte che arrivi a Buenos Aires e ti sorprende vedere la quantità di bambini che c'è dappertutto, nelle piazze, nei posti apposta per bambini, cioè è una città sicuramente Buenos Aires, o il resto dell'Argentina, più friendly children che le città. Le città italiane dove è difficile camminare col passeggino, diciamo. Rischi, purtroppo anche la cronaca ce lo insegna, rischi delle tragedie e non si riesce letteralmente a circolare. La mamma italiana, il padre italiano deve fare degli slalom nel traffico. A proposito di mamma italiana, quella argentina le assomiglia? Beh, anche in questo senso direi che è molto diversa. nel senso che almeno qua è molto comune, diciamo, vedere queste mamme apprensiva. Mettiti il golfino, levati questo, attento allo spifero, mettiti la canottiera. Io credo che non esista la canottiera in Argentina. Non esiste, cioè i bambini si vestono con la maglietta d'estate, d'inverno si mettono il golf, ma la canottiera non esiste, la magliettina di lana o quella di cotone. E altro esempio, non so, adesso che qua estate fa uno un bagno in piscina in mare, non è che aspetta 3 ore dopo di aver mangiato, questo neanche esiste, cioè non... Sono secondo te tutti frutti dell'eccessivo carattere delle madri italiane iperprotettive e iperapprensive, secondo la tua osservazione di madre argentina? I tuoi figli hanno conservato lo spagnolo, parlano solo italiano? No, loro parlano spagnolo perfettamente, perché gli ho sempre parlato spagnolo da piccoli, parlano anche italiano e parlano anche inglese, perché mio marito è irlandese, quindi sono trilingui. Ed è abbastanza normale per le strade di Buenos Aires, immagino, incontrare famiglie che comunque mantengano 2-3 lingue. Il bilinguismo, il trilinguismo non è vissuto come una grande eccezione, come un grande problema come qua? Beh, io direi, ti dico, molta gente che è andata a Buenos Aires in vacanza, tutti sono rimasti sorpresi dal fatto che per la strada uno chiede qualcosa, molta gente la sa l'inglese. A differenza di, magari uno crede, vado in Argentina, non potrò comunicare, a parte che uno se parla piano in italiano viene capito benissimo. E comunque c'è molta gente, devo dire, ci sono moltissime scuole bilingui, inglese e spagnolo, quindi molta gente nella strada che sa l'inglese, sì. E lo parla tranquillamente, insomma, non come... Sì, magari non... a livello Oxford, ma parlano. Vabbè, ma è in grado di esprimersi, di esprimere emozioni, situazioni, sentimenti. Queste sono le grandi differenze che hai notato nella tua vita, non solo di giornalista, ma praticamente di madre immersa nella quotidianità dell'Italia. C'è qualcosa che esporteresti in Argentina dell'Italia? Beh, sì. Cosa? La cultura, i tesori artistici. La cultura e la storia, cioè qua c'è una storia che purtroppo l'Argentina è un paese giovane, quindi gli manca tutta la storia e la cultura che c'è qua. E invece cos'è che non sopporti più di questo paese o che ti dà ancora i nervi dopo 10 anni? In 30 secondi, Elisabetta. 30 secondi, il sistema di raccolta di spazzatura che c'è a Roma. Cioè, più che altro vedere a ogni ora i camioncini della spazzatura, quando io mi piacerebbe non vederli, che lavorassero alle 5 di mattina o alle 4 di mattina, come succede nelle grandi metropoli del mondo, credo, che non si vedono i camion della spazzatura e non vedi spazzatura. Grazie mille. Hasta luego, Elisabetta Piqué. Grazie. È stato molto interessante discorrere con lei, corrispondente della Nación in Italia. Tra poco però parleremo di eredità e successioni, proprio così a bianco o nero. È il tema del sondaggio di oggi. Vi abbiamo chiesto, continuate a votare sul sito radio24.it, è giusto lasciare tutto il patrimonio e le imprese ai figli? Di nuovo insieme, di nuovo buongiorno da Irene Zerbini. È difficile, sembra, resistere a certi appelli, soprattutto se vengono lanciati da Bill Gates e Warren Buffett, perfino quando questi due guru della finanza americana hanno chiesto ai colleghi o a tutti i miliardari americani di dare in beneficenza metà della loro fortuna. È proprio così. A metà giugno sia Bill Gates che Warren Buffett si erano impegnati a devolvere in azioni filantropiche almeno metà del proprio patrimonio, o durante la vita o dopo la morte. E questa operazione Giving Pledge, così è stato battezzato questo invito, è già stato sottoscritto da 40 miliardari. Molti nomi erano noti, per esempio il sindaco di New York, Michael Bloomberg, e altri sono stati a sorpresa, il fondatore di Citigroup, Sandford Whale, sua moglie Joanne, gli hedge founder Julian Robertson, Jim Simpson, e potremmo continuare la lista. Sembra che ci siano anche mostri sacri della finanza, tra cui David Rockefeller. Metà della propria fortuna verrà lasciata in queste azioni, in questo fondo, che e poi dovrà decidere, e naturalmente loro potranno pronunciarsi anche sulla destinazione finale, su come destinare questo denaro. La quota da raggiungere sarebbe 600 miliardi di dollari. Un'operazione che ha suscitato anche tante critiche, ma poi ne parleremo. Intanto benvenuti ai nostri ospiti, Gian Antonio Stella. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, editorialista del Corriere della Sera, con noi anche Giuseppe Bortolussi, che è presidente dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E con noi Federica De Benedittis, la fondatrice di una scuola di fundraising di Roma, è una senior fundraiser e esperta di grandi donatori. Ora, parlando di eredità e successioni, noi abbiamo chiesto semplicemente in maniera generica: è giusto lasciare patrimonio e imprese solo ai figli? Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in vita. Bianco o nero? E continuate a votare. Fino a questo punto gli italiani, non tutti gli italiani, chiaro, gli ascoltatori Radio 24 hanno detto sì, un sì netto, 65% è favorevole. E come gli italiani vivono l'eredità, quando devono lasciarla e quando devono riceverla in entrambi i casi, la dice lunga sulla mentalità di un paese. Tant'è che abbiamo disturbato oggi Gian Antonio Stella proprio per questo. Com'è che la successione, come si vive l'eredità, come si vive la morte e quello che seguirà la morte, ha a che fare anche e perfino con la produttività di un paese, con la capacità di innovazione di un paese. Tu, Gian Antonio Stella, l'hai accennato in uno dei tuoi articoli. Quante ore ho per rispondere? Quante ore hai? Cerchiamo di sintetizzare, perché hai detto una frase, hai scritto una frase molto efficace, lascio a te ripeterla perché io non riesco a bestemmiare in veneto con tanta bravura, che penso la dica tutta in una riga. No, no, dilla tu che voglio metterti la prova. Gli italiani o i veneti, tu parlavi in generale, preferiscono passare al figlio, magari un po' mona, le aziende familiari piuttosto che affidarsi a forestieri. Entrambi, il primo aggettivo e forestieri, sono messi tra virgolette. Sì, perché il problema è questo. Questo è un problema serio delle imprese italiane, cioè un'idea familiare, e la difficoltà poi diventa anche quella di uscire da questa dimensione familiare. Intanto c'è un problema proprio di tipo filosofico, diciamo così, no? C'è l'idea della roba, che non è soltanto meridionale in senso verghiano, diciamo, ma anche settentrionale. C'è l'idea che sta roba è mia, questa cosa è mia, e quindi ne faccio quello che mi pare. Se voglio me la gioco al casinò, se voglio la lascio a mio figlio anche se è un deficiente, se voglio ne faccio. Cioè, questa qui è un'idea sbagliata, secondo me, perché a un certo punto alcune, fermo restando l'inviolabile diritto alla proprietà privata, credo che un'impresa come la Fiat non sia solo della famiglia Agnelli, ma a un certo momento diventa una cosa collettiva che in qualche modo, ferma restando, ripeto, la proprietà privata, è anche della città di Torino, è anche dei lavoratori, è anche un patrimonio della collettività italiana, che in varie occasioni ha anche contribuito finanziariamente. E questa qui non è una cosa secondaria, non è che uno si alza la mattina e dice è mia, me la gioco, me ne vado, ciao. Non è così. Secondo punto, invece questo qui non è tanto morale quanto proprio pratico, economico, finanziario, aziendale. Quando uno ha un'idea di questo genere, magari se non ha il figlio adatto, piuttosto che darla a degli amministratori capaci, trovati sul mercato, che però lo fanno sentire un po' meno padrone, la fa comunque restare in famiglia l'azienda, creando disastri. I disastri si sono visti anche dalle parti mie, anche nel Veneto si sono visti disastri di questo genere. Insomma, l'Italia ha una fortissima concentrazione di imprese, quindi adesso, a parte gli scherzi, stiamo parlando di un tema serio, perché le leggi, anche non solo la mentalità sulla successione, hanno un effetto poi nella crescita delle imprese. E lei, che con le imprese piccole e medie ha a che fare tutti i giorni, Giuseppe Bortolussi, cosa ha notato quando si tratta di dire addio a questo mondo, quando si parla poi di lasciare al figlio, non solo deficiente o meno, può o meno avere un talento? Cosa fanno gli artigiani e le piccole imprese? Perché a volte poi l'effetto è disastroso anche in termini occupazionali. Ma lì, per quando fortuna, l'erede è sbagliato, diciamo così. Ma vede, c'è un discorso. Le imprese di cui parlate voi sono già imprese di una certa dimensione, imprese strutturate, imprese che hanno magari 40-50 dipendenti, magari di più. Le piccole imprese, le microimprese, che sono la stragrande maggioranza delle imprese italiane, quelle da 5, da 7, da 10, sono il 95%. Sì. Bene, quelle cosa succede? Succede che magari il padre tenta di lasciare l'impresa e scopre che il figlio non ha, oltre alla capacità di gestire, anche magari quella manualità, quella capacità di fare quel mestiere, per cui alla fin fine l'azienda muore e lascia spazio ad altre piccole imprese che nascono. Questo è il ricambio che avviene, anche se bisogna dire che la legge italiana è fatta in maniera tale da incoraggiare il sistema di lasciare tutto ai figli. Chiaro. Intanto non ci sono più le tasse sull'eredità, ma poi proprio la nostra mentalità, nella mentalità liberale, tutti dovrebbero partire dallo stesso punto, no? Cioè l'uguaglianza del punto di partenza, per cui c'è anche una tassazione che è importata a questo. Da noi invece il patrimonio è tuo, tutto è tuo, compresa l'impresa, e il fatto che poi si vede che molti la trattano un bene personale e poi finiscono in galera, perché l'impresa non è solo dell'imprenditore, è giustamente patrimonio di tutti, è patrimonio comune di chi ci lavora, ma di tutta la comunità. E quando uno addirittura altrove si può scegliere l'erede, diciamo che così un padre, una madre capisce che uno dei figli ha un talento maggiore, più portato, può decidere anche di lasciare il 100% dell'impresa a quel figlio lì. Ha fatto scalpore l'esempio IKEA, del signor IKEA che fa gli esami ai figli per capire chi è più bravo e si meriterà la successione. Dovendo o volendo fare un italiano un'operazione di questo genere, deve poi liquidare gli altri eredi e quindi togliere energia in termini di liquidi all'impresa. Non può semplicemente decidere un'operazione simile. Come minimo. Sì, è proprio una cultura, una mentalità, ma anche una legislazione che favorisce questo. Noi veniamo da una mentalità, da una cultura contadina che faceva proprio quello che dice lei, cioè si tentava di mantenere intatto il patrimonio il terreno, dalla terra, di mantenerla intatta liquidando gli altri figli e lasciando al primo, che spesso non era il primo, magari era il terzo, perché il genitore allora era oculato, era in gioco tutta la vita, mi spiego, anche il futuro della propria famiglia, per cui a volte il genitore sceglieva il terzo con grande scorno del primo e del secondo, ma sapeva capire chi aveva il talento, che aveva. Oggi non è più così e ripeto, c'è anche un altro problema che è tutto italiano, quello della capacità di rischio. Oggi noi vediamo che i giovani non hanno più voglia di rischiare, non è più diffusa la cultura del rischio, ma la cultura del posto fisso piuttosto. Quando vede che indetto un concorso, che so io, per 3 posti di ragioniere oppure uno stadio per farlo, capiamo subito che c'è dietro una cultura, quella del salario ombra, cioè la sicurezza, il fatto di essere sicuri in ogni caso e magari, visto l'orario, di poter fare anche un secondo lavoro. Quindi non c'è nulla in questo paese, che ha una grande capacità di imprenditoria, di imprenditorialità, non c'è nulla però che la favorisca. Gian Antonio Stella, tu hai girato diverse nazioni alla ricerca e di dati per i tuoi libri sull'immigrazione e naturalmente per lavoro. Cosa hai notato per quel che riguarda la competitività delle imprese? Quali sono le grandi differenze tra il sistema tema Italia che abbiamo descritto guardandolo da questa particolare serratura, quella dell'eredità e della successione, e il resto delle nazioni industrializzate? Ma io credo che Bartolussi abbia detto delle cose assolutamente sagge e vere, purtroppo è davvero così. Purtroppo da noi questa idea della proprietà è anche il grande limite, l'idea che questo è mio è un grandissimo limite, che impedisce anche di andare a vedere com'è appunto dalle altre parti, cioè dalle altre parti il massimo dell'amore che uno può avere nell'azienda è di vederla crescere come un figlio. Scusate, gioco, perché poi qui sono sempre tra figli che si va in conflitto, no? Cioè, il grande amore è quello. In qualche modo, perfino la filosofia del naso chiuso, altoatesino, tirolese in genere, è una filosofia che ha una sua ragione non sciocca. È vero che andava a penalizzare dei figli, però... La filosofia del naso chiuso, scusa, potresti illustrarla? Del naso chiuso. Del naso chiuso, cioè il naso viene chiuso? Il naso è la proprietà terriera con la casa, la stalla, il tabiato, sì. Il fienile, insomma. Che in che senso viene chiuso? Nelle valli del nord. Lì il naso chiuso cos'era? Era che la successione era chiusa, cioè non si spartiva il naso, perché avevano già capito una cosa importante, che anche se purtroppo andava a danneggiare altri figli, una proprietà divisa necessitava di un altro finile, un altro, insomma non reggeva, quindi molto meglio tenere la proprietà unita, quindi un solo figlio ereditava e gli altri ciccia. Questa cosa qua, con qualche ovviamente ritocco, però insomma in sostanza il naso chiuso andava a uno. Questa cosa qua non è, può essere considerata anche ingiusta da chi veniva tagliato fuori, però aveva una sua ragion d'essere, cioè l'amore per l'azienda, che non è un'idea diversa dalla mia roba, e l'amore per l'azienda deve avere uno spazio adeguato. Anche di fronte agli interessi legittimi, per usare figlia, l'azienda figlia è in qualche modo può essere in qualche modo più importante del singolo figlio, se poi va tutto del singolo interesse, e questo è molto interessante. E da noi purtroppo questa idea qua non c'è, e purtroppo lo si vede tutti i giorni nei risultati. E tra poco sentiremo anche voi, se volete chiamare all'800 24 00 24 con le vostre opinioni, oppure continuate a mandare messaggi SMS al 349 238 6666. Vi abbiamo chiesto oggi: è giusto lasciare il patrimonio, l'eredità, le aziende, le imprese ai figli? Continuate a votare www.radio24.it. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. È giusto lasciare tutto il patrimonio e le imprese ai figli? 30 miliardari americani hanno risposto all'appello di Bill Gates, lasceranno in beneficenza metà della loro fortuna. Allora, è vero che dietro questa filantropia ci sono anche tanti calcoli, fa bene al marketing, l'immagine dell'azienda, però c'è senza dubbio una mentalità, una cultura che dice anche in alcuni paesi i figli meglio liberarli, meglio che si facciano le ossa, meglio che non si ramolliscano, che non diano nulla per scontato, che vadano nel mondo e poi vedremo se si meriteranno anche l'eredità. In Italia, ci segnalano gli ascoltatori, ci sono anche i giovani che hanno voglia di rischiare, quindi non diamo un'immagine che in qualche modo sia univoca di questo universo giovanile, ci segnalano da Tortona. Ed è anche vero che cresce la voglia di filantropia, i lasciti per esempio. quanto e come si fanno in Italia? Lo chiediamo a Federica De Benedittis, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che addirittura ha fondato la scuola di fundraising di Roma ed è esperta di grandi donatori, si occupa di non profit da anni. Dunque Federica, lei ha notato una tendenza a ricorrere all'ascito, a voler contribuire anche con la successione, con il testamento, al benessere collettivo e non solo della propria famiglia? Sì, dunque, io questo l'ho notato assolutamente soprattutto negli ultimi, durante la mia esperienza negli ultimi anni, in quanto proprio mi occupo di lasciti testamentari all'interno di Medici Senza Frontiere. Ecco, negli ultimi 2 anni addirittura io ho notato un incremento notevole della richiesta di informazioni da parte dei donatori e dei non donatori su questa particolare forma di sostegno alle organizzazioni non profit. Questo dunque avviene perché effettivamente, come dicevano gli altri ospiti, in Italia ci sono delle la mentalità che poi ha creato anche il supporto normativo sicuramente non favorisce i lasciti alle organizzazioni non profit per la loro interezza se ci sono poi dei parenti stretti o quindi i cosiddetti eredi legittimari. Nonostante questo noi vediamo sto notando un incremento invece da parte delle richieste, come dicevo prima, di informazioni su questa particolare forma di sostegno, che è una forma di sostegno molto molto importante e anche molto bella per chi la fa, perché permette, attraverso appunto un lascito, si può disporre di una parte anche del proprio patrimonio a favore di un progetto che magari si è intrapreso in vita, non so, per esempio sostenere un progetto di ricerca o sostenere appunto un'attività umanitaria. È molto molto importante per chi la fa. E ma nella sua esperienza c'è stato, non so, dopo la decisione del decuius, come viene chiamato, della persona che lascerà, insomma, qualche caso di parente che poi si è fatto sentire dicendo quel testamento non è valido, quella volontà non va riconosciuta? Lei ha avuto esperienze di questo genere sul campo? Guardi, devo dire la verità, per il ben 90% dei casi non abbiamo problemi, cioè nel senso devo dire anche che la maggior parte delle persone per adesso lascia una parte del proprio patrimonio o l'intero patrimonio se non ha i cosiddetti eredi legittimari, cioè, quindi sono persone soprattutto sole, ma nonostante questo potrebbero comunque impugnare il testamento anche chi? Parenti stretti, però non lo fanno perché credono veramente nel progetto di solidarietà e di impegno sociale della persona che ha questo desiderio, perché comunque è un qualcosa di molto importante, di emotivamente molto forte, il fatto di desiderare di lasciare ad un'organizzazione non profit il patrimonio che si è comunque costruito con sacrifici e comunque un patrimonio che si ha anche lasciato a sua volta dai genitori. E sempre più organizzazioni non profit tra l'altro prevedono questa modalità e la spiegano anche sulla pagina del sito internet, cioè c'è un accesso anche facile alla comprensione. Assolutamente, perché questo sicuramente incentiva anche un approccio per le persone e per i donatori. Perché? Perché spiegando meglio come si fa un lascito a favore di un'organizzazione non profit, noi ad esempio faccio la mia esperienza, noi abbiamo notato che l'aumento di interesse nasce proprio perché spieghiamo che fare un lascito testamentario non è poi così complicato, non è poi così difficile e non implica dei grossi problemi anche rispetto alla parentela, perché basta seguire quelle quote che vengono quella cosiddetta quota di legittima che viene destinata poi agli eredi legittimari, che poi sarebbero appunto il coniuge, i figli e i genitori se esistono. Quindi tutto il resto, cioè, rispettata quella quota, se ne può disporre, insomma. Ma Gian Antonio Stella, questo appello di questi miliardari americani cosa ti ha fatto pensare? Perché le critiche sono state molteplici, che ipocriti, prima hanno accumulato e poi questa filantropia che fa anche pubblicità, è solo questo? Ma no, intanto voglio dire, intanto teniamo conto che di una cosa, che uno dice o adesso o quando sarò morto, sono prima cose o poi diverse. Che una volta che uno se n'è andato, non penso che possa restare più di tanto legato. Cioè, no. Ma a parte questo, insomma, Cioè c'è una bella differenza tra donare in vita e... No, voglio dire che un operaio che ha messo da parte 100.000 euro, lasciando 50.000, gli cambia la vita. Se uno ha 80, se uno ha 30 miliardi di euro, non riuscirebbe a spendere neanche a passare la vita a buttare via i soldi, insomma, no? Per cui è una cosa che lascia... Fatte le dovute differenze, insomma, cambia tutto. Ma a parte questo, ripeto, lì c'è proprio una questione, non c'è nessun conflitto, io credo, perché se uno facesse ammazzare un'azienda solo perché per guadagnare soldi, insomma, allora sì, sarebbe una visione gretta. Io non credo che tutti gli imprenditori siano così, sicuramente ci sono degli imprenditori che la pensano così, però... È stato censurato al nominare la possibilità che un imprenditore lo faccia solo per soldi. Giuseppe Bertolussi, allora subentri lei, che ha a che fare con artigiani e piccole imprese. Guardi, Verga stesso, no, nella sua novella La Roba, ha un protagonista che pur vedendo, sapendo che non può portarsela dietro, ammazza i polli o rompe le giare. Quindi sì, per certi versi, roba mia, ventene con me, continuava a dire mentre ammazzava i polli. Vede, ma questa mentalità è un po' cambiata. È cambiata, per esatto. Fortuna. Ma vede, in Italia c'è un grosso problema a cui accennava l'altro ospite, il discorso della lesione della legittima. Non è che in Italia tu puoi fare del tuo patrimonio quello che vuoi, perché devi rispettare la legittima che spetta ai figli, il fratello, eccetera. Quindi il resto è la parte disponibile. Questa parte invece, quella della legittima, è indisponibile. Bisogna partire da questo. Più di tanto in Italia non puoi lasciare. Invece sono convinto che questo che stanno facendo questi magnati, questi ricconi americani, in parte sia una cosa giustissima e che le critiche negative, quindi che vengono da noi soprattutto, da tutto il mondo, siano legate a un modo di concepire la ricchezza, che la ricchezza sia in qualche modo a somma negativa, cioè quelli si sono arricchiti perché hanno tolto a qualcun altro. Ma Bill Gates non ha tolto a nessuno, Bill Gates ha inventato, ha creato ricchezza dal nulla. Le critiche sì, sono dovute al ruolo dello Stato, secondo alcune scuole di pensiero. È lo Stato che dovrebbe pensare, questo poi è anche una mentalità decisamente europea, che dovrebbe pensare a tutti i meccanismi del sociale, del welfare, e questa filantropia così un po' pataccona che si fa pubblicità in cambio dei miliardari americani, questo si legge in alcuni blog di critica, non è altro che la possibilità di farsi pubblicità, ma non sono forme efficaci di lotta alla povertà e alla degradazione ambientale. Allora, io sono d'accordissimo che non sono efficaci per sconfiggere il bisogno e le situazioni di estremo disagio di certe realtà. Abbiamo visto che gli aiuti spesso fanno male, ma però è giusto farlo, io sono molto favorevole e dal mio punto di vista li ringrazio. E la mentalità che debba provvedere tutto lo Stato cozza con la realtà italiana, dove in molte regioni d'Italia il volontariato è così diffuso, così esteso, da essere tra i primi nel mondo, non solo in Europa. Ora, in conclusione però, Bertolussi, c'è chi ci scrive: e l'amore per i figli non è lasciar loro il frutto di anni di sacrifici di una o più generazioni, perché a loro volta devono fare dei sacrifici e non avere tutto pronto. Questo tipo di mentalità, che poi è molto più diffuso appunto dove esiste questo tipo di diritto, crea anche delle persone, parlando di eredità, che non se l'aspettano l'aiuto dai genitori. Ma questa è la cosa più intelligente, mi scusi, che ho sentito. Ogni volta che c'è qualche presa di posizione netta sparisce la linea. È tornato nel frattempo Gian Antonio Stelli. Io ci sono, non so se voi mi sentite. No, adesso adesso la sentiamo. Io dico una cosa, sì. Che questa posizione è una posizione che io condivido pienamente, perché c'è anche un modo di diseducare, c'è un modo di togliere la voglia di rischiare e di esserci. Anche i figli devono fare la loro strada. È per questo che nelle culture liberali, lo diceva anche Bertrand Russell, nelle culture liberali la tassazione sull'eredità è alta per dare a tutti la stessa possibilità di partenza, di avere lo stesso punto di partenza, ed è a quel punto lo Stato che con i soldi dell'eredità crea scuole, crea assistenza, crea altre cose a chi ne ha più bisogno. Ora vede, il discorso invece che lasciare tutto ai figli, anche se il figlio non se lo merita, è una cosa sbagliata, a parte che in Italia non puoi, perché c'è la lesione della quota della legittima, allora sì, il figlio ti fa causa e ottiene la sua parte di eredità, anche se tu hai voluto regalare quei soldi a una causa magari filantropica degna. Gian Antonio Stella, abbiamo parlato di successione e eredità anche per parlare di competitività e di manodopera altamente qualificata, di cui le aziende italiane avrebbero tanto bisogno. Questo è collegato nel tuo pensiero, nella tua riflessione, questo è il collegamento che abbiamo fatto in puntate precedenti. Sì, non c'è dubbio che, cioè, voglio dire, sempre lì torniamo a quello che dicevamo prima, cioè l'azienda è una cosa che viene prima. Sono il 64%, è giusto lasciare tutto ai figli? No, 36%. Ritorna 24 mattina, domani mattina alle 7:15. Grazie a tutti i nostri ospiti, a voi che ci avete seguito, da Irene Zerbini. Buona giornata.